Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Dallo studio dell'emittente radiofonica Rock FM. Trasmettiamo Eclettica! Cari ragazzi, buon pomeriggio. Il programma Eclettica. Rubrica dedicata ai problemi tecnici dell'agricoltura. Di e con Giulio Caperdoni. Inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Da parte mia, a tutti voi, l'augurio di una buona visione. Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buon pomeriggio. Buonasera. Sera. Sera. Sera. Tra qualche istante vi trasmetteremo a colori. Eclettica! Eclettica! Eclettica! Andrà in onda tra qualche istante. Eclettica! Signore e signori, vi auguriamo buonanotte. Buonanotte. Buonanotte. Care eclettiche, cari eclettici, benvenuti. Benvenuti sulle frequenze di Rock FM per un'altra settimana da passare assieme ad Eclettica e a Giulio Caperdoni sulle frequenze di Rock FM fra le 19 e le 20. Il tutto è disponibile anche in podcasting. Per quanto riguarda questa settimana ho fatto una scelta particolare per le letture, un solo libro, una scelta particolare, sì, ma non unica, è già capitato in passato. E nel caso in questione ho scelto questo libro perché letto mi ha stupito fino alla fine. Non è sicuramente così facile trovare un libro che ti stupisca pagina dopo pagina. Se siete curiosi, dovete pazientare solo qualche secondo per scoprire di che cosa sto parlando. Il ragazzo Mannaia viveva al piano di sotto. Eravamo amici perché portava sempre a spasso un brutto cagnolino che accarezzavo ogni volta che l'incontravo nell'ingresso. Come avrete visto dalle foto, non aveva niente di speciale. L'unica cosa strana erano gli occhiali, quasi sempre sporchi, e quel suo sguardo annebbiato e torbido ti faceva venire voglia di tirar fuori il fazzoletto e dare una bella pulita alle lenti. Un bravo ragazzo. Perché i giornali scrivono sempre frasi del genere? Tutti quelli che lo conoscevano erano convinti che fosse un bravo ragazzo, affezionato ai genitori, che faceva parte degli scout da anni e passava il tempo libero collezionando francobolli orientali. Persino Danny, mio marito, che è un uomo meraviglioso, disse la stessa cosa quando scoprimmo i dettagli più raccapriccianti. Sembrava un bravo ragazzo, non è vero, Cullen? Ragazzo Mannaia, Cristo santo, come si fa a chiamare così qualcuno? Danny? Il nostro amichetto Alvin Williams, vale a dire il ragazzo Mannaia, ha fatto a fettine la madre e la sorella nell'appartamento qui sotto. Non mi sembra proprio il caso di definirlo un bravo ragazzo. Questo era l'incipit di Ossi di Luna di Jonathan Carroll. You fluttered round the yard, making your move. Take a look and see what just breezed in the door. Why, I didn't know the circus was in town. Must have got that shirt off on a dead Chinese. Holy days in a summer place, drinking beer with you 5 years ago. Quest'oggi le danze sono state aperte dopo la lettura di Jonathan Carroll con Electric Bird, un brano estratto da Some People Have Real Problems, quello che è il nuovo album che ho presentato in anteprima la settimana scorsa dall'australiana Sia. Questo è il nome dell'artista in questione. Abbiamo poi proseguito con gli italiani Canadians, un bel brano, un bel ritornello di quelli che ti si stampano in testa. Summer Teenage Girl è il pezzo che si è appena chiuso. E proseguiamo invece con gli Efterklang, formazione danese che ormai è uscita da parecchie settimane con un album del quale sono andato a pescare poco e mi domando perché, perché è un bel disco quello che è uscito per la Room Racket sul mercato locale, il mercato danese invece su The Leaf Label per quanto riguarda tutto il mondo. Da quell'album ci ascoltiamo Mirador. Thank you. Danny ha una qualità che mi ha fatto innamorare di lui. Se potesse, perdonerebbe il mondo intero. Ragazzi mannaia, cani che fanno i loro comodi in mezzo al marciapiede, automobilisti spericolati. Poverini, non sanno quello che fanno. Io invece non perdono nessuno. Se mi hai rubato la mia matita colorata arancione in quinta elementare, puoi stare sicuro che ce l'ho ancora legata al dito, brutto stronzo. Stavamo facendo colazione e Danny leggeva ad alta voce l'articolo che era apparso sul giornale. Pensare che quell'assassino avesse vissuto fino a pochi giorni prima sotto casa nostra mi faceva venire la pelle d'oca, dalla cima dei capelli alla punta dei piedi. Ha detto che non sa che cosa gli sia passato per la testa. Ah, davvero, eh? Beh, spero proprio che la prossima cosa che gli passi per la testa sia un bel cappio al collo. Cullen, mi hai interrotto 4 volte da quando ho cominciato a leggere. Dimmelo, se vuoi che continui o se preferisci proseguire con il tuo monologo, esclamò sorridendo. Non era in collera. Quando si arrabbiava, Danny non apriva più bocca. E allora la cosa migliore era correre a nascondersi sotto il letto e rimanerci finché non avesse ripreso a parlare. Questo era ancora l'incipit di Ossi di Luna, di Jonathan Carroll. Made of smoke and a fruit. it be, stranger? I'll have ice water. Ice water? Water? You want water, you better go dunk your head in the horse trough out there. In here, we pour whiskey. Siamo alle porte della chiusura della prima parte di Eclettica. Vi ricordo che poi ci sarà la seconda parte con altrettanta musica, altrettanti spezzoni cinematografici e altrettante letture. Prima parte che si chiude con un artista molto molto particolare, ma prima di parlarvi di lui voglio ricordarvi che vi siete appena ascoltati Ball of Flame Shoot Fire con Red Meat e prima ancora Iron and Wine con Pagan Angel and the Borrowed Car. Fatto questo, vi dico che vi state per ascoltare Howard Robot, o meglio My Robot Friend, questo è lo pseudonimo che utilizza. Lui di giorno fa il programmatore web e di notte si traveste da robot, dando vita a uno degli spettacoli sicuramente più affascinanti degli ultimi anni. Robot High School, il brano che ci stiamo per ascoltare, è un estratto dal nuovo album che uscirà ad inizio 2008 per la Soma. Metal pens, metal hearts, metal hands.